Ellie, ascolta e leggi. Poveretto o poveretti? Due gentiluomini attraversavano la campagna a cavallo. Giunsero in vista di una villa silenziosa e si fermarono a guardarla. Un vecchio dalla gran barba comparve a una finestra della villa. Un attimo appena, e la sua testa si ritirò di nuovo. «Poveretto, mi fa tanta pena», disse il primo gentiluomo. «Ne fa anche a me. Però è proprio matto. Matto da legare. Che disgrazia per una famiglia. Davvero. Per fortuna è un pazzo tranquillo. Se si toglie quella sua stramba fissazione. Già, appunto quella. Un matematico come lui che si mette a sostenere che la Terra gira intorno al Sole. Pura follia. Povero Galileo Galilei.